Permettetemi per una volta di assurgere al di sopra dell'ambito dell'ideologico quotidiano, di quelle che una volta abbiamo definito le transazioni minori nel commercio dell'ideologia, per affrontare una polemica ideologica di carattere assolutamente universale, che più universale non si può, anche se naturalmente l'altezza ideologica di qualsiasi argomentare non esclude le ricadute più clamorose nella prassi di tutti i giorni. Non vi sarà sfuggito, attenti lettori della stampa come siete, non vi sarà sfuggito che l'ultimo numero della Civiltà Cattolica, la benemerita rivista dei padri gesuiti, se la prende con il giudizio universale di Michelangelo, quello della Cappella Sistina. Se non l'avete visto, ne riferisce variamente la stampa del 15 ottobre ultimo scorso. E non se la prendono i gesuiti con Michelangelo per i motivi consueti per cui quell'opera non è mai piaciuta agli ecclesiastici post-rinascimentali, cioè in sostanza quell'eccessiva esibizione di genitali maschili e con la relativa necessità di dipingervi sopra degli schermi con connesse complicazioni di ordine estetico. Ne avevamo parlato anche noi nella scorsa primavera. Ma per ragioni davvero sostanziali, l'affresco a quanto pare non è una felice interpretazione dei dati biblici e teologici. Anzi, distorce il vero significato che la teologia cattolica tutta dà del giudizio universale. Ciusca, si dice il lettore, e perché? Beh, è semplice. La figura di Cristo, che con il braccio destro accoglie gli eletti nella pace dei cieli e con la sinistra indica l'inferno ai peccatori, offre una visione senza speranza, dicono i gesuiti. Quella massa dolente, turbinosa e franante, letterale, condannata alla sofferenza eterna, è fissata in maniera troppo tetra, troppo angosciosa. Nella rappresentazione di Dio giudice inflessibile, su cui neppure la Madonna implorante può avere la minima influenza, si coglie solo l'aspetto, virgolette, giudiziale e tremendo, chiuse le virgolette. Nella visione cattolica, dicono gli eredi di San Ignazio, il giorno della fine del mondo non può essere rappresentato come una spinta alla disperazione. Vabbè. L'attacco, a quanto mi risulta, ha suscitato una complicata risposta del critico d'arte Giulio Carlo Argan, che invece di fare il suo mestiere di critico d'arte ha tirato in ballo la riforma, la necessità di opporsi alla teologia protestante e persino il ricordo delle razzie dei Vanzichenecchi, che non so proprio cosa possa centrare, ma non è il caso di seguirlo su questa via complicata. Il problema non è un problema di storia dell'arte. L'affresco, oltre che un'opera d'arte, è grosso modo uno strumento di comunicazione. I gesuiti sono esperti riconosciuti della materia che si vuol comunicare e sono liberi di giudicarlo con i loro criteri. Noi aspettiamo con ansia il punto di vista dei domenicani. Ma nel frattempo, quali siano i criteri dei gesuiti, bisogna dire, non è chiarissimo. Che la prospettiva del giudizio universale, come scrivono, imponga al cristiano un atteggiamento e delle opere regolate dalla speranza, ci sembra abbastanza ovvio. Ma la speranza che si richiede al buon cristiano è appunto quella di non finire all'inferno. Una volta giunti al dunque, una volta suonato l'ultimo squillo dell'ultima tromba, di speranza temiamo che non ce ne sia più. Che altro atteggiamento può avere il giudice definitivo, se non un atteggiamento imperativo? Un Dio che, indicando l'inferno ai peccatori, strizzasse benevolmente l'occhio, come a dire: coraggio ragazzi, vedrete che non è niente, a me personalmente sarebbe abbastanza simpatico, ma non mi sembra corrisponda all'insegnamento tradizionale della Chiesa. Vedete, breve excursus personale, io non ho avuto una formazione particolarmente religiosa, ma una certa quantità di preti è toccata, come a tutti, anche a me. E come tutti i miei coetanei, ho avuto le mie bravi notti d'angoscia in seguito a certe descrizioni dell'inferno un po' troppo vivide e al terribile racconto del ragazzino non troppo malvagio ma poco assiduo alla confessione, che viene investito da un'auto mentre si trova in stato di peccato mortale e non c'è Cristo, finisce proprio all'inferno. Non sono riuscito a dormire per mesi, mi ricordo. Oggi io spero che queste orribili cose ai bambini non si raccontino più, ma che l'inferno sia l'inferno, credo che resti un solido patrimonio teologico del cristianesimo nel suo complesso. E se c'è, qualcuno dovrà ben finirci, no? Non credo che lo neghino neanche i gesuiti, in realtà. Loro dicono solo che bisogna avere un atteggiamento di speranza anche in extremis. D'accordo, l'inferno esiste, ma non è detto che. Beh, amici miei, mi oppongo di tutto cuore. Se i gesuiti vogliono abolire l'inferno, che convochino i teologi, che chiedano un concilio, che avvino un dibattito nelle strutture ecclesiali, che facciano dolce violenza sul Papa, che facciano quello che si deve fare e gliene saremo tutti gratissimi. Ma non possono tenersi la Genna e chiedere a Dio che vi mandi con atteggiamento benevolo dei peccatori tuttora speranzosi. La paura è paura, può servire come strumento di persuasione. La speranza è speranza e anch'essa può giovare a fini di ammaestramento, ma tutte e due insieme mi sembra un po' troppo. Questo è un basso tentativo di autosbiadimento ideologico a scopo di tranquillizzazione dell'utenza. È quello che nella dimensione mondana si dice volere la botte piena e la moglie ubriaca, un esempio vergognoso di piaggeria teologica. E amici e compagni, rifiutiamoci in massa, restituiteci l'inferno e mandiamoci pure in massa tutti i gesuiti. Sits in the dying light after the show, his noses and hats around his lonely pose. He lives in another world, far, far away. Musical laughing clown, he wished he could stay. Clarabelle, you'll soon begin. Put it on that kid and grin.